4 luglio. Boom! Laura si svegliò di soprassalto. Era ancora buio. La vocina spaventata di Carrie chiese: "Cos'è stato?" "Niente di cui avere paura", disse Laura. Tesero le orecchie e la finestra era un riquadro grigio scuro nel nero, ma Laura aveva la netta sensazione che la notte stesse per finire. Boom! Parve che l'aria tremasse. "Cannonate!" esclamò papà mezzo addormentato. "Perché? Perché?" disse Grace. "Pa, ma perché?" "Chi è?" chiese Carrie. "Perché sparano?" "Che ore sono?" chiese mamma. Nell'altra stanza papà disse: "È il 4 luglio, Carrie." L'aria vibrò di nuovo. Boom! Non erano cannonate, erano cariche di polvere da sparo che esplodevano sotto l'incudine del fabbro in paese. Era lo stesso rumore delle battaglie che l'America aveva combattuto con coraggio per l'indipendenza. Il 4 luglio era una festa perché commemorava il giorno in cui i primi americani avevano dichiarato che tutti gli uomini nascono liberi e uguali. Boom! "Su, ragazze, tanto vale alzarsi", disse mamma. Papà si mise a cantare. "Dimmi dunque che vedi nella luce chiara dell'alba." Era l'inizio dell'inno nazionale americano. "Charles", protestò mamma, ma rideva perché lì in casa in quel momento era di gran lunga troppo buio per vedere alcunché. "Non c'è motivo di essere tanto seri", disse papà saltando fuori dal letto. "Viva, viva, siamo americani!" E riprese a cantare. "Viva, viva, oggi è giorno di feste, ognuno di noi canterà. Viva, viva per la nostra bandiera che è bandiera di libertà." Pareva che perfino il sole, quando si levò nel più azzurro dei cieli, sapesse che quel giorno era il glorioso 4 di luglio. A colazione, mamma disse, sarebbe proprio la giornata ideale per il tradizionale picnic del 4 luglio. "Beh, l'anno prossimo magari lo faremo", disse papà. "In effetti non ci sarebbe di che fare un vero e proprio picnic quest'anno", riconobbe mamma. "Che picnic sarebbe senza un polletto arrosto?" Dopo un inizio così singolare, la giornata parve a tutti un po' vuota. Una vera festa presuppone che succeda qualcosa di speciale, ma che poteva mai succedere di speciale quel giorno? Un bel niente. "Vorrei vestirmi bene oggi", disse Carrie mentre lavavano i piatti. "Anch'io", disse Laura, "ma non ce n'è motivo." Uscendo a buttare l'acqua nella tinozza, Laura vide che papà era andato a guardare il campo di avena. Gli steli crescevano fitti e robusti, di un bel colore grigio-verde, e il vento li increspava appena. Anche il mais era cresciuto parecchio. Le lunghe foglie giallo-verdi erano così fitte e robuste che quasi non si vedeva più il terreno di sotto. Nell'orto si allungavano i viticci dei cetrioli, srotolandosi a poco tra i viluppi di grandi foglie allargate. Stavano venendo su anche i filari di piselli e di fagioli. Nell'aiuola delle carote si vedeva già una fila di esili foglie piumose e le barbabietole avevano cominciato a buttare fuori le loro lunghe foglie scure dal gambo rossiccio. Stavano crescendo bene anche i cespugli di Alkekenji. E nell'erba, intorno a casa, razzolavano i pulcini a caccia di insetti. Dava grande soddisfazione vedere tutto crescere così, ma era una soddisfazione da tutti i giorni. Il 4 luglio ci sarebbe voluto qualcosa in più. Anche papà pensava la stessa cosa. Non aveva niente da fare perché il 4 luglio non si lavora. Si accudiscono le bestie e si fanno le faccende di casa, ma nient'altro perché è giorno di festa. Rientrando in casa, papà disse a mamma: "Oggi si festeggia in paese, ti piacerebbe andarci?" "In che modo si festeggia?" chiese mamma. "Beh, soprattutto corse di cavalli, ma hanno fatto anche una colletta per la limonata." "Alle corse non ci saranno le signore", disse mamma, "e non posso andare a far visita alla gente il 4 luglio senza essere invitata." Laura e Carrie erano lì ad ascoltare, morivano dalla voglia di andare in paese e ci rimasero male quando mamma scosse la testa dicendo: "Vai tu, Charles. In ogni caso, Grace si stancherebbe troppo." "Si sta meglio a casa", disse Mary. Ma Laura disse: "Pa, se tu vai, possiamo venire con te, Carrie e io?" L'espressione incerta sul viso di papà si mutò in un sorriso. Anche mamma sorrise. "Sì, Charles, un po' di svago vi farà bene", disse. "Vai giù in cantina a prendere il burro, Carrie, mentre vi vestite vi preparo un po' di pane e burro da portarvi dietro per il pranzo." Ora sì che sembrava davvero il 4 luglio. Mamma preparò i panini imburrati, Papà si lucidò le scarpe, Laura e Carrie corsero a vestirsi. Per fortuna il vestito bello di Laura di cotone a fiori era stato lavato e stirato da poco. Si lavarono faccia, collo e orecchie attorno nel catino, strofinando la pelle fino a farla diventare rossa. Sopra i mutandoni e la maglia a maniche lunghe, misero la sottoveste inamidata, di fine mussola bianca. Si spazzolarono i capelli e si fecero le trecce. Laura se le girò intorno alla testa e le fermò con qualche forcina, poi fece il fiocco col nastro della domenica a quelle di Carrie. Infine si infilò il suo abito elegante, abbottonato dietro, con una balza in fondo alla gonna che arrivava fino alle caviglie. «Mi abbottoni, per piacere?» chiese Carrie. Non riusciva ad arrivare ai due bottoni centrali della fila in mezzo alla schiena, gli altri li aveva abbottonati tutti a rovescio. «Non puoi andare in paese il 4 luglio coi bottoni girati in dentro», disse Laura, sbottonandoli tutti e riabbottonandoli nel modo giusto. «Ma se stanno in fuori mi tirano i capelli», protestò Carrie. «Le trecce ci si impigliano dentro». «Sì, lo so, succedeva anche a me, ma devi sopportarlo, almeno finché non sarai abbastanza grande da tirarti sui capelli anche tu». Si misero la cuffia. Papà le stava aspettando col sacchetto dei panini in mano. Mamma le osservò qualche istante e disse: «Siete proprio carine». «Che lusso uscire con le mie due belle figliole», disse papà. «Anche tu sei molto elegante, pa», disse Laura. Aveva le scarpe lucide, la barba spuntata con cura e indossava l'abito della domenica e il cappello di feltro a tesa larga. «Voglio andare anch'io», strillò Grace e lo ripeté due o tre volte, anche quando mamma le ebbe detto: «No, Grace». Era venuta su un po' viziata perché era la più piccolina, ma doveva imparare a non fare capricci. Papà la mise a sedere su una sedia e le disse severamente: «Hai sentito cosa ha detto Ma?» A tutti e tre dispiacque lasciarla a casa. Magari tra un anno avrebbero portato anche lei, specie se fossero andate anche mamma e Mary. Magari in quel caso avrebbero preso il carro. Quel giorno invece si avviarono a piedi per lasciare i cavalli a pascolare tranquilli in mezzo all'erba. Se li lasci tutto il giorno legati a un palo, sotto il sole, nella strada piena di polvere, si stancano inutilmente e Grace era troppo piccola per fare tutta quella strada a piedi e troppo grande per essere portata in braccio. Non erano ancora arrivati in paese che cominciarono a sentire degli scoppiettii, come un rumore di popcorn sul fuoco, ma molto più forte. Carrie chiese cos'era e papà disse che erano petardi. Lungo tutta Main Street c'erano cavalli legati ai pali. Sui marciapiedi la ressa era tale che quasi non si riusciva a camminare. Alcuni ragazzini gettavano petardi accesi in mezzo alla strada. Li sentivi sibilare un momento, poi scoppiavano con un gran botto. «Non lo sapevo che era così», mormorò Carrie. Anche Laura si sentiva a disagio. Non si erano mai trovate in mezzo a tanta gente ed erano quasi tutti uomini e ragazzi. Donne se ne vedevano poche. Non c'era altro da fare che passeggiare su e giù per Main Street, ma con tanti sconosciuti intorno non sembrava molto divertente. Fecero avanti e indietro un paio di volte, poi Laura suggerì che lei e Carrie potevano stare nel magazzino che papà aveva in paese. Lui disse che era una buona idea. Avrebbero guardato la gente dalla finestra mentre lui faceva un giro, poi avrebbero mangiato i panini e sarebbero andati a vedere le corse. Le accompagnò al magazzino, che era completamente vuoto, e Laura chiuse la porta. Che piacere trovarsi di nuovo sole in quella grande stanza vuota e familiare. Andarono a dare un'occhiata alla cucina, anche quella vuota, dove avevano vissuto nel corso del lungo, freddissimo inverno. Poi salirono di sopra, nel sottotetto, dove una volta c'erano i letti. Adesso era tutto vuoto anche lì. Faceva un gran caldo lassù. Si affacciarono alla finestrella tra i due spioventi del tetto a guardare la folla di sotto e i ragazzini che gettavano i petardi. «Peccato che non abbiamo dei petardi anche noi», disse Carrie. «Quelli sono fucili», disse Laura. «Siamo a Fort Ticonderoga e là ci sono gli inglesi e gli indiani. Noi siamo gli americani e stiamo combattendo per l'indipendenza». «Ma a Fort Ticonderoga c'erano gli inglesi e sono stati i Green Mountain Boys a conquistarlo», obiettò Carrie. «Allora siamo con Daniel Boone in Kentucky e questa è una palizzata di tronchi», disse Laura, «solo che poi gli inglesi e gli indiani lo hanno catturato». «Quanto costano i petardi?» chiese Carrie. «Beh, anche se non costassero molto, è sciocco spendere soldi solo per fare un po' di rumore», disse Laura. «Guarda quel pony baio, scegliamoci il cavallo che ci piace di più, dai, comincia tu». Con tutto quello che c'era da vedere, non si accorsero che il tempo passava. Era già mezzogiorno quando sentirono i passi di papà di sotto e la sua voce che le chiamava: Ragazze, dove siete? Scesero di corsa. Papà aveva gli occhi che brillavano. Vi ho portato una cosa speciale, una ringa affumicata da mangiare col nostro panino imburrato. E poi, guardate qua, aveva tirato fuori un mazzetto di petardi. Oh, papà! Gridò Carrie. Quanto sono costati? Nemmeno un centesimo, disse Pa. Me li ha regalati l'avvocato Burns per le mie figliole, ha detto. E perché lo ha fatto? Chiese Laura. Beh, vuole mettersi in politica, immagino. Fa così con tutti. Affabile, gentile. Li facciamo scoppiare adesso oppure dopo, quando abbiamo finito di mangiare? Laura e Carrie ebbero lo stesso pensiero. Lo capirono scambiandosi un'occhiata. Teniamoli, Pa. Portiamoli a casa, a Grace. D'accordo, disse papà. Si mise in tasca i petardi. Laura tirò fuori i panini e aprirono il pacchetto della ringa. Era squisita. Ne misero da parte un pezzetto da portare a mamma. Quando ebbero finito di mangiare, andarono a bere al pozzo dal secchio che papà aveva tirato su, fresco e gocciolante. Poi si lavarono le mani e la faccia sudata e si asciugarono con il fazzoletto di papà. Era ora di andare a vedere le corse. La folla stava sciamando al di là della ferrovia. Su un palo laggiù sventolava la bandiera americana. Il sole era caldo, ma una brezza leggera rinfrescava l'aria. Accanto al palo della bandiera c'era un tizio in piedi che sovrastava tutti gli altri. Doveva essere salito su una cassa. Quando cominciò a parlare, il chiacchiericcio della folla morì. Beh, ragazzi, non è il mio forte fare discorsi, ma oggi è il glorioso 4 luglio. Oggi è il giorno in cui i nostri padri si sono liberati dal giogo dei despoti d'Europa. Non erano molti gli americani a quell'epoca, ma non volevano essere tirannizzati da nessuno. Dovettero combattere contro i soldati inglesi e contro i mercenari e contro i selvaggi pelirossa assassini, incendiari e cacciatori di scalpi che quei damerini di aristocratici vestiti di pizzo avevano scatenato contro i nostri insediamenti e che pagavano per ammazzare e bruciare, scalpare donne e bambini. Sì, toccò a un manipolo di americani scalzi combattere e farli fuori, e altro che se lo fecero. Sì, signori, gliele abbiamo date agli inglesi nel 1776 e poi di nuovo nel 1812. E non sono 20 anni che abbiamo definitivamente scacciato le monarchie d'Europa dal Messico e da tutto il continente. Guardate la nostra bandiera. Sì, signori, è qui che sventola sulla nostra testa. E se mai i despoti d'Europa si azzarderanno a rimettere piede sulla nostra terra, gliele daremo di nuovo di santa ragione. Hurra! Hurra! Gridarono tutti. Hurra! Hurra! Gridarono anche Laura, Carrie e papà. Bene. Eccoci qua dunque, continuò quello. Eccoci qua, tutti noi, uomini e donne libere e indipendenti, cittadini del paese di Dio, unico paese del mondo dove gli uomini e le donne sono libere e indipendenti. Oggi è il 4 luglio, il giorno in cui è cominciato tutto questo e dovrebbe esserci una festa più grande e più bella di questa. Quest'anno non possiamo fare molto. La maggior parte di noi è appena arrivata per farsi strada da sé con la forza delle proprie braccia, ma l'anno prossimo qualcuno ce l'avrà fatta e potrà contribuire a mettere su una vera grande festa per il giorno dell'indipendenza. Intanto siamo qui. È il 4 luglio e bisogna leggere la dichiarazione di indipendenza. A quanto pare sono stato designato io, perciò levatevi il cappello, ragazzi, perché adesso la leggo. Laura e Carrie conoscevano il testo della dichiarazione di indipendenza a memoria, naturalmente, ma sentirla leggere ad alta voce davanti a tanta gente dava alla giornata un senso di solennità e di gloria. Si presero per mano e ascoltarono in riverente silenzio come tutto il resto della folla. La bandiera a stelle e strisce sventolava sopra la loro testa e loro dicevano a mente le parole prima che l'uomo le pronunciasse. Quando nel corso degli umani eventi sorge la necessità che un popolo sciolga i legami politici che lo hanno stretto a un altro popolo e assuma tra le potenze della terra lo stato di potenza separata e uguale a cui le leggi della natura e del Dio della natura gli danno diritto, un conveniente riguardo alle opinioni dell'umanità richiede che quel popolo dichiari le ragioni per cui è costretto alla secessione. Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità, che tutti gli uomini sono creati uguali, che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti e che tra questi diritti sono la vita, la libertà e il perseguimento della felicità. Seguiva il lunghissimo, terribile elenco dei misfatti del re. Ha tentato di impedire il popolamento di questi stati, ha fatto ostruzionismo all'amministrazione della giustizia, ha reso i giudici dipendenti solo dal suo arbitrio, ha istituito una quantità di uffici nuovi e mandato qui nugoli di impiegati per vessare il popolo e divorarne gli averi. Ha saccheggiato i nostri mari, devastato le nostre coste, incendiato le nostre città, distrutto la vita della nostra gente. Sta trasportando in questo momento vasti eserciti di mercenari stranieri per completare l'opera di morte, desolazione e tirannia già iniziata con casi di crudeltà e di perfidia che non trovano uguale nelle più barbare età e sono del tutto indegni del capo di una nazione civile. Noi, pertanto, rappresentanti degli Stati Uniti d'America, riuniti in congresso generale, appellandoci al supremo giudice dell'universo per la rettitudine delle nostre intenzioni, nel nome e per l'autorità del buon popolo di queste colonie, solennemente rendiamo di pubblica ragione e dichiariamo che queste colonie unite sono e per diritto devono essere stati liberi e indipendenti, che esse sono sciolte da ogni sudditanza alla corona britannica e che ogni legame politico tra esse e lo Stato di Gran Bretagna è e deve essere del tutto sciolto e che, come stati liberi e indipendenti, essi hanno pieno potere di fare guerra. E in appoggio a questa dichiarazione, con salda fede della protezione della Divina Provvidenza, reciprocamente impegniamo la nostra vita, i nostri beni e il nostro sacro onore. Nessuno gridò urrà. Sembrava piuttosto il momento di dire amen, ma nessuno sapeva che fare. Poi papà cominciò a cantare e tutti gli andarono dietro. Dolce paese di te, mio paese di libertà, di te oggi canto. Risplenda sempre la nostra terra della fiamma della libertà. Proteggila, Signore nostro Re, sia questa sempre la tua volontà. La folla aveva cominciato a disperdersi, ma Laura era rimasta lì, impalata. Di colpo aveva capito una cosa che non aveva mai pensato prima. La dichiarazione di indipendenza e la canzone si erano fuse nel pensiero che il re dell'America è Dio. Gli americani non obbediscono ad altri che a Dio, pensava. Sono liberi. Questo significa che devono obbedire alla propria coscienza. Non c'è un re che comandi papà, è lui che deve comandare se stesso. Certo, pensava Laura, e quando io sarò un po' più grande, papà e mamma smetteranno di dirmi che cosa devo fare e non ci sarà più nessuno che avrà diritto di darmi ordini. Toccherà a me costringermi ad agire bene. A quel pensiero le parve che tutto si illuminasse. Ecco che cosa significa essere liberi, ragionava. Significa che devi agire bene. Dio, nostro Padre, autore di libertà. Sono le leggi della natura e del Dio della natura a darti il diritto alla vita e alla libertà. Perciò devi attenerti alla legge di Dio, perché la legge di Dio è l'unica cosa che ti dà il diritto di essere libera. Non poté continuare a seguire il filo dei propri pensieri, perché Carrie la chiamava e papà stava dicendo: "Venite, ragazze, là distribuiscono limonata gratis." Indicava un paio di barili accanto al palo della bandiera. C'era qualche persona in fila ad aspettare il proprio turno per bere dal mestolo di latta con cui ognuno pescava dal barile. Quando uno aveva bevuto, passava il mestolo a chi era in coda dietro di lui e se ne andava verso la pista dove si vedevano già passare dei cavalli. Laura e Carrie si erano messe un po' in disparte, ma l'uomo che aveva il mestolo le vide e lo passò subito a papà. Lui lo tuffò nel barile e lo porse a Carrie. Il barile era quasi pieno e si vedeva uno strato di fette di limone che vi galleggiava sopra. Deve essere buona, disse papà, perché ci hanno messo un bel po' di limone. Carrie beve un sorso e spalancò gli occhi felice. Era la prima volta che assaggiava la limonata. L'hanno appena fatta, disse uno degli uomini in fila. L'acqua viene dal pozzo dell'albergo, deve essere bella fresca. Beh, dipende anche, disse un altro, da quanto zucchero ci hanno messo. Papà Riempì di nuovo il mestolo e lo passò a Laura. Lei la limonata l'aveva già assaggiata una volta, da piccola, alla festa di Nellie Oleson quando abitavano ancora in Minnesota. Questa però era ancora più buona. Laura vuotò il mestolo e ringraziò papà. Sarebbe stato maleducato chiederne ancora. Quando ebbe bevuto anche papà, andarono verso la pista di gara. L'erba intorno era tutta calpestata dal passaggio di tanta gente. Per fare la pista era stata dissodata una striscia di terra che formava un grande anello. Le zolle le avevano portate via in modo che la terra sotto restasse liscia e in piano. In mezzo all'anello e tutto intorno c'era la prateria, qua e là calpestata e segnata dal passaggio dei cavalli e dei calessi. Ehi, salve Bost! Gridò papà. Il signor Bost li raggiunse fendendo la folla. Era arrivato in paese giusto in tempo per vedere le corse. La signora Bost invece aveva preferito restare a casa. Sulla pista comparvero quattro pony, due bai, un grigio e un morello. I ragazzi che li montavano li allinearono alla partenza. Su quale scommettereste se ci fosse da scommettere? Chiese il signor Bost. Sul morello! Esclamò Laura. Il pony aveva il mantello nero che quasi luccicava al sole da quanto era lustro, e la lunga coda e la criniera che sventolavano come seta nel vento. Teneva la testa alta e le zampe danzavano nervose sulla pista. Al grido via, i pony scattarono e la folla cominciò a urlare. Col collo teso avanti nella velocità del galoppo, il morello si portò subito in testa. Poi la nuvola di polvere sollevata dalle zampe nascose i pony alla vista. Ricomparvero poco dopo, quando ebbero passato la curva e imboccato il secondo rettilineo. Andavano come il vento. Il grigio stava rimontando sul morello. Per qualche istante si videro le due teste appaiate. Poi il grigio passò avanti. La folla ricominciò a urlare. Laura però continuava a tifare per il suo preferito, che ce la stava mettendo tutta. Lentamente riprese il grigio, la testa passò il collo dell'altro, ancora poco e l'avrebbe superato di nuovo. All'uscita della seconda curva, eccoli arrivare ora tutti e quattro sulla dirittura d'arrivo, una macchia scura che veniva avanti al galoppo, sollevando una nuvola di polvere e, proprio all'ultimo, il baio col muso bianco passò come un fulmine davanti agli altri due e tagliò il traguardo per primo mentre la folla gridava e applaudiva. Avessi scommesso sul morello, avresti perso, Laura, disse papà. Beh, ma è il più bello lo stesso, disse Laura. Che emozione quella corsa! Anche Carrie aveva le guance rosse e gli occhi che brillavano. Stava scuotendo la testa furiosamente perché le si era impigliata la treccia in un bottone. Ce ne sono altre? Altre gare, pa? Gridava eccitata. Sì, adesso c'è la gara di trotto coi calessi, rispose papà. Laura, su chi scommetti adesso? Chiese il signor Bost ridendo. I primi a comparire sulla pista furono due bei cavalli sauri. Si muovevano come se il calessino che trainavano non avesse peso. Poi arrivarono altre pariglie con calessi di vario genere, ma Laura non li vide quasi perché guardava una coppia di bai di razza Morgan. Li aveva riconosciuti subito. La bella testa altera, la posa arcuata del collo, il manto lucente come seta. La lunga criniera nera e il ciuffo sulla fronte, gli occhi scuri, miti e intelligenti insieme. Guarda, Carrie, ci sono i due Morgan! Quella è la pariglia di Almanzo Wilder, Bost, disse papà. Ma che diavolo è quell'affare a cui li ha attaccati? Almanzo Wilder era seduto su qualcosa di stranamente alto, che non aveva affatto l'aspetto di un calesse. Col cappello tirato indietro sulla testa, si guardava attorno con espressione allegra e sicura di sé, e quando si mise in fila con gli altri, videro che stava sul sedile di un carro lungo e pesante con uno sportello nella fiancata. È il carro di suo fratello Royal, disse un tizio accanto a loro. Ha già perso con quel peso dietro, figurarsi, in gara coi calessi, disse un altro. Guardavano tutti il ridicolo carro di Almanzo e si sentivano commenti beffardi. Il cavallo esterno è Prince, quello con cui l'inverno scorso ha fatto 40 miglia tra andata e ritorno con Cap Garland per andare a prendere il frumento che ci ha tenuti in vita. Se non c'era lui, il paese moriva di fame, disse papà al signor Bost. L'altra è Lady, la cavalla che quella volta è andata dietro alle antilopi. Gran belle bestie. potenti e veloci. Si vede, disse il signor Bost, ma non c'è pariglia che con quel carro dietro possa battere i due bai di Sam Owen con il calessino leggero. Non se lo poteva trovare anche lui un calesse da qualche parte? Oh, lui è un tipo indipendente e orgoglioso, disse qualcuno lì accanto. Preferisce perdere col suo, piuttosto che vincere con cose prese in prestito. Peccato che non abbia un calesse anche lui, però, disse il signor Bost. I due Morgan erano di gran lunga i più bei cavalli in gara. Che aspetto fiero! Tenevano la testa alta e le orecchie dritte e pestavano la terra della pista come se non avessero quel carro pesante da tirarsi dietro e fossero lì per farsi ammirare. Che peccato che non abbiamo nessuna possibilità, pensava Laura con le mani strette a pugno. Come avrebbe voluto che quei due meravigliosi cavalli potessero gareggiare alla pari con le altre pariglie. Con quel carro dietro non potevano vincere. Oh, non è giusto! Esclamò. Intanto era cominciata la gara. I due Sauri erano subito passati in testa. Trottavano con tanta leggerezza che non sembrava neppure che le zampe lucenti e le ruote del calesse toccassero terra. Poi passarono le altre pariglie, tutte con un calesse leggero, a un solo posto. Nessuna doveva tirare non già un peso come il carro di Royal, ma neppure un calesse a due posti. Ultimi venivano i due splendidi bai col carro. La più bella pariglia del paese, disse un tizio accanto a Laura, ma non ha nessuna possibilità. No, disse qualcun altro, quel carro è troppo pesante, romperanno il trotto di sicuro. Ma i due bai tiravano senza rompere l'andatura. Leggere, senza esitazioni, le otto zampe tenevano il ritmo elegante del trotto. Come furono passati oltre, la nube di polvere nascose cavalli e calessi. Ricomparvero più avanti, oltre la curva. Ed ecco, sì, c'erano solo due calessi ora davanti ai bai. No, un calesse solo. Gli altri tre erano dietro. Dai, dai, dovete vincere, dovete vincere! L'incitava Laura tra sé. Tale era il suo desiderio di vederli andare più in fretta, che le sembrava quasi di poterli spronare a forza di volontà. Erano all'ultima curva. Eccoli venire verso il traguardo. I due Sauri erano ancora in testa. I bai non potevano farcela. Era troppo il peso del carro, ma Laura sperava, sperava con tutte le sue forze. Più in fretta. Dai, andate un po' più in fretta, un pochino più in fretta. Su, su, dai. Almanzo si piegò in avanti come se parlasse ai cavalli ed ecco, sempre tenendo il trotto, i bai accelerarono. Le due teste raggiunsero il calesse del signor Owen e lentamente continuarono a guadagnare terreno. Le zampe trottavano, regolari, velocissime. Ora le quattro teste erano vicinissime. No, erano pari, pari! Chi l'avrebbe mai detto? Fanno patta! Gridò qualcuno. A quel punto il signor Owen frustò i Sauri. Una, due volte, e si dette a urlare come un matto per incitarli. I due cavalli accelerarono di colpo. Almanzo non aveva frusta. Si era piegato di nuovo in avanti e parlava ai cavalli tenendo le redini con leggerezza, salde in mano. Lievi, eleganti, i due bai volavano come rondini. Passarono i Sauri e tagliarono il traguardo. Avevano vinto! La folla urlava, tutti si misero a correre verso il carro di Almanzo che se ne stava seduto, tranquillo, lassù e si guardava intorno. Laura si accorse di aver trattenuto il fiato per buona parte della corsa. Le tremavano le gambe. Avrebbe voluto gridare, ridere, piangere tutto insieme e sedersi, tanto si sentiva esausta. Hanno vinto, continuava a gridare Kerry, battendo le mani. Laura non diceva nulla. Così li ha vinti lui $5, disse il signor Bost. Quali $5? Chiese Kerry. Qualcuno in paese ha messo $5 per la pariglia vincente, disse papà. Se li ha vinti Almanzo Wilder. Laura ringraziò il cielo di non averlo saputo. Sarebbe stata troppo in ansia sapendo che i bai correvano per un premio così importante. Ed è giusto così, disse papà. Quel ragazzo ha mano coi cavalli. Le gare erano finite. Non c'era altro da fare che stare lì a chiacchierare e a guardarsi intorno. Anche di limonata non ce n'era quasi più. Il signor Bost andò a prenderne mezzo mestolo e Laura e Kerry se lo divisero. Era più dolce di prima, ma meno fresca. Parigi e Calessi se ne stavano andando. Anche la folla aveva cominciato a disperdersi. Papà, che era andato a chiacchierare con alcune persone, tornò dicendo che era ora di andare a casa. Il signor Bost li accompagnò fino in fondo a Main Street. Papà disse che i Wilder avevano una sorella che faceva la maestra in Minnesota. Ha preso anche lei una concessione qui, mezzo miglio a ovest del paese, e ha chiesto ad Almanzo di informarsi se c'è la possibilità di avere il posto nella scuola del paese l'inverno prossimo. Gli ho detto di dirle che faccia domanda al consiglio scolastico. A parità di condizioni non c'è motivo per non assumere lei. Laura e Carrie si scambiarono un'occhiata. Papà faceva parte del consiglio scolastico e certamente esprimeva l'opinione di tutti i consiglieri. Chissà, pensava Laura, se studio molto, magari mi prende in simpatia e un giorno mi porterà a fare un giro con quei meravigliosi cavalli.